165. Fritto di mele. Prendete mele grosse, di buona qualità, non troppo mature. Levatene il torsolo col cannello di latta fatto a questo uso, che lascia il buco in mezzo. Sbucciatele e tagliatele a fette grosse, poco meno di un centimetro. Mettetele nella pastella numero 156 quando siete per friggerle. E se non vi dispiace l'odor degli anaci, che qui sta bene, mettetene un pizzico. Spolverizzatele di zucchero a velo e servitele calde. 166. Fritto di cardoni. Dopo aver tolto i filamenti ai cardoni, lessateli in acqua salata, tagliateli a pezzetti e fateli soffriggere nel burro salandoli ancora un poco. Poi infarinateli, poneteli nella pastella numero 156 e friggeteli. Possono far comodo per contorno a un fritto di carne o a un umido.